Il terzo anello, ad alta voce, I mandarini, di Simone de Beauvoir, traduzione di Franco Lucentini. Il Canada non fu interessante né piacevole. Ero tutta felice sbarcando nuovamente a New York. Ero invitata quello stesso giorno a un cocktail dove ritrovai la maggior parte dei miei amici. Mi sorridevano, parlavano, io parlavo, sorridevo. Per tutta una settimana ancora avremmo continuato a parlarci e a sorridere. E poi né loro avrebbero più pensato a me, né io a loro. Questo paese era ben reale, e io ero ben viva. Ma sarei partita senza lasciar niente dietro di me, senza niente da portare con me. Tra due sorrisi improvvisamente pensai, e se andassi a Chicago? Avrei potuto telefonare a Brogan quella sera stessa. Lewis Brogan? Sono Anne Dubreuil. Nessuna risposta. Sono Anne Dubreuil, mi sentite? Vi sento benissimo. Potrei venire a passare 3 o 4 giorni a Chicago questa settimana, dissi. Voi cosa ne pensate? A Chicago in questo momento fa un tempo bellissimo. Ma se venissi sarebbe per vedervi. Avete tempo? Ho tutto il tempo, disse con voce che rideva. Il mio tempo è mio. Esitai un secondo, ma era troppo tardi per tirarsi indietro. Dissi, allora arriverò domattina col primo aereo. Eravamo soli nel tassi che ci portava verso il centro della città. Brogan teneva il mio sacco da viaggio sulle ginocchia, taceva, e io mi sentivo inquieta. Saranno lunghi 4 giorni con questo sconosciuto. 4 giorni saranno corti per far conoscenza. Se almeno avessimo potuto chiacchierare tranquillamente, come l'altra volta, ma Brogan somigliava assai poco all'uomo di cui avevo conservato il ricordo. La primavera aveva fatto fondere il blocco di ghiaccio nel quale l'inverno l'aveva irrigidito. Certo, non era diventato più grazioso né più morbido, ma la sua figura era quasi elegante, i suoi capelli decisamente biondi, gli occhi d'un grigio verde ben definito. In quel viso che m'era parso neutro, scoprivo una bocca sensibile, narici un po' crudeli, una sottigliezza che mi sconcertava. Per rompere il silenzio attaccai. Ho visto i vostri amici a New York. Non ho amici a New York. Ma sì, i Benson che mi avevano dato il vostro indirizzo. Oh, non sono miei amici. Allora perché avete accettato di vedermi l'altra volta? Perché eravate francese e avevate un nome che mi piaceva. Anne. Mi concesse un istante il suo sorriso, me lo riprese subito. Feci un altro sforzo. Cosa avete fatto in questi 2 mesi? Sono invecchiato di un giorno tutti i giorni. Io vi trovo piuttosto ringiovanito. È che ho un vestito da estate. Il silenzio ricadde e questa volta mi detti per vinta. Va bene, dissi. Andiamo in qualche posto. Il vecchio ristorante tedesco dove pranzammo mi parve accogliente. Chiacchierai con disinvoltura. Il bar dove ci sedemmo poi era immerso in una bruma viola. Improvvisamente mi feci coraggio. Gli presi una mano e dissi la frase di tutte le donne che cercano d'essere tenere. Mi piacciono le vostre mani. A me piacciono le vostre. Le nostre mani si unirono. Io guardavo con emozione quel fragile ponte gettato tra le nostre vite e mi chiedevo con la bocca secca, le conoscerò queste mani? Il silenzio durò a lungo. Poi Brogan propose, non vorreste che tornassimo a sentire Big Billy? Mi piacerebbe. In strada fece segno a un tassì. Salite. Non ebbi il tempo di dirmi, ora o mai più. Già mi stringeva a sé. La sua bocca imprigionava la mia. La sua lingua mi frugava. E il mio corpo si levava di tra i morti. Entrando nel bar vacillavo come dovette vacillare Lazzaro risuscitato. I musicisti si riposavano e Big Billy venne a sedersi al nostro tavolo. Brogan scherzava con lui e i suoi occhi brillavano. Io avrei voluto partecipare alla sua allegria, ma ero impacciata dal mio corpo tutto nuovo, troppo voluminoso, troppo bruciante. L'orchestra ricominciò a suonare. Guardavo svagata 2 ballerini che eseguivano un numero di tip-tap, e accostando il bicchiere alle labbra, vidi che la mano mi tremava. Cosa avrebbe fatto Brogan? Che avrebbe detto? Alla fine, dopo un tempo che mi parve interminabile, sentii la sua voce. Volete che andiamo? Sì. Nel tassì mi riprese la bocca, poi chiese, volete dormire da me? Sì. Certo. Come avrei potuto gettare di nuovo alla spazzatura quel corpo che m'aveva dato? Appoggiai la testa alla sua spalla, sentii il suo braccio intorno alla vita. Anne, mi fu addosso, mi chiamò ancora, con una voce che mi sconvolse. Per la prima volta pronunciai il suo nome. Lewis. Anne, sono così felice. Era nudo, io ero nuda, e non ne avevo imbarazzo. Il suo sguardo non poteva ferirmi, non mi giudicava e non mi preferiva a nient'altro. Ero da capo a piedi sotto le sue mani, che mi imparavano a memoria. Ripetei: «Mi piacciono le vostre mani». «Vi piacciono?» Tutta la sera mi sono chiesta se le avrei sentite sul mio corpo. «Le sentirete tutta la notte», disse. D'un tratto non era più goffo né modesto, il suo desiderio mi trasfigurava. Io, che da tanto tempo non avevo più sapore né forma, possedevo di nuovo dei seni, un ventre, un sesso, una carne. Ero nutriente come il pane, odorosa come la terra. Il tempo e il piacere trascorsero come in un miracolo, non pensai a misurarli. So solo che quando ci addormentammo s'udiva il lieve pigolio dell'alba. Era domenica, e per la prima volta quell'anno il sole brillava su Chicago. Andammo a sederci in un prato in riva al lago. Lewis mi carezzò i capelli. Mi disse parole semplici e dolci. Mi fece scivolare al dito un vecchio anello di rame. Io guardavo l'anello, ascoltavo le parole inconsuete. Spiavo sotto la mia guancia i battiti familiari d'un cuore sconosciuto. Se il sole si fosse fermato in mezzo al cielo, avrei lasciato scorrere l'eternità senza accorgermene. Ma il sole s'era riavvicinato alla terra. L'erba diventava fresca. «Prenderete freddo, camminiamo un poco», disse Lewis. Mi parve strano di ritrovarmi sulle mie gambe riscaldata dal mio solo calore e che il mio corpo sapesse spostarsi e occupasse un posto suo proprio. Tutto il giorno era stato assente, negativo. Aspettava la notte e le carezze di Lewis. «Dove volete cenare?» disse. «Possiamo tornare a casa o andare in qualche posto?» «Andiamo in qualche posto. Se provassimo quel club negro di cui parlava ieri Big Billy...» «È lontano», disse Lewis. «Passeggeremo un po'». Avevo voglia di distrarmi. Quelle ore troppo intense m'avevano stancata. La sala era piena, qualche bianco e molti negri, alcuni dei quali portavano un fez in testa. «Chi sono quei negri col fez in testa?» «Appartengono a una delle tante leghe», disse Lewis. «Siamo capitati in uno dei loro congressi». «Ma sarà molto noioso». «Lo temo anch'io», disse con voce un po' scontrosa. Anche lui probabilmente era stanco della nostra orgia di felicità. Mentre mangiavamo in silenzio, un gran negro dal fez in capo salì sulla scena e si mise a parlare con enfasi. «Che cosa dice?» «Parla della Lega». «Ma non ci saranno numeri di varietà?» «Sì». «Quando?» «Non lo so». Rispondeva a fior di labbra. Eravamo stanchi, tutti e due, ma questa stanchezza non ci riavvicinava, ed un tratto non sentii più scorrermi nelle vene che acqua grigia. Cercai di parlare, per tornargli vicina. «Siete stanco?» «No». «Vi annoiate?» «Aspetto». «Ma non vorremmo aspettare così per 2 ore?» «Perché no?» «Lewis, rientriamo, non ne posso più di restar qui». «Siete stata voi a voler venire». «Non è una ragione». Era già ricaduto nel suo torpore. Cercai di dirmi: «Dormo, è un incubo, ora mi sveglierò». Ma no, il sogno era stato quel pomeriggio troppo azzurro e solo adesso ci svegliavamo. In riva al lago Lewis m'aveva parlato come se non avessi mai dovuto lasciarlo. M'aveva infilato al dito un anello. Ma fra 3 giorni sarei partita per sempre e lui lo sapeva. «Me ne vuole e ha ragione», pensai. «Perché sono venuta, visto che non posso restare? Me ne vuole, e ora il suo rancore ci separerà per sempre». Avevo le lacrime agli occhi. «Siete arrabbiato?» «Ma no». «Allora cosa c'è?» «Niente». Cercavo invano il suo sguardo. Mormorai disperata: «Io torno a casa». Lewis non si mosse, e io mi chiesi incredula: «È possibile che tutto sia già finito? Che l'abbia perduto così presto?» Dissi con un singhiozzo: «Lewis». Mi passò un braccio intorno alle spalle e allora mi misi a piangere. «Sono stato davvero così cattivo?» «M'avete fatto paura», dissi. «Paura? Avevate paura dei tedeschi a Parigi?» «No». «E io v'ho fatto paura?» «Ne sono fiero». Dovreste averne vergogna. Mi baciava leggermente sui capelli. Mi carezzava il braccio. Mormorai: volevo rendervi il vostro anello. L'ho visto, disse con voce grave. Io pensai: sono io a rovinare tutto. Ma non potevo articolare una parola. Ma perché? Dissi alla fine. Che è successo? Non è successo proprio niente. Non insistei, ma chiesi: non volete che torniamo a casa ora? Sì, certo. A letto spense subito la luce. Mi prese nel buio, in silenzio, senza pronunciare il mio nome, senza offrirmi un sorriso. E poi si staccò senza una parola. Sì, mi dissi con terrore. Me ne vuole. Lo perderò. Lewis, ditemi almeno che avete amicizia per me. Amicizia? Ma io vi amo, disse con violenza. Si voltò contro il muro e io piansi a lungo, senza sapere se fosse perché m'amava o perché io non potevo amarlo o perché un giorno non mi avrebbe amata più. Bisogna che gli parli, decisi la mattina dopo aprendo gli occhi. Ora che la parola amore era stata pronunciata, bisognava che spiegassi a Lewis perché rifiutavo di servirmene. Mormorai: Lewis, non v'ho parlato abbastanza di me. Bisogna che vi spieghi. Sì? C'era ansia nei suoi occhi e io pensai: tutto è finito. Guardai un'ultima volta la stufa, i muri, la finestra. Tutto quello scenario in cui tra poco non sarei stata più che un'intrusa. E poi, a tentoni, in disordine, mi misi a pronunciare frasi. Una volta in montagna la terra m'era franata sotto i piedi e avevo pensato che sarei morta, ma in me non c'era stata che indifferenza. Ora sentivo la stessa rassegnazione. Avrei voluto soltanto poter chiudere gli occhi. Non avevo capito che il fatto d'essere sposata contasse ancora tanto per voi, disse Lewis. Conta, dissi. Lewis tacque a lungo. Io mormorai: mi capite? Mi cinse le spalle col braccio. Mi siete ancora più cara di prima. Mi siete ogni giorno più cara. Appoggiai la mia guancia alla sua e tutte le parole che rifiutavo di dirgli mi gonfiavano il cuore. Non volevo partire. Non dopodomani. Non così presto. Avrei telegrafato a Parigi. Potevo restare ancora 10 giorni, 15 giorni. Potevo restare. E poi? Bisognava bene che finissi per andarmene. La prova che dovevo partire subito era che già mi costava tanto. Non si trattava ancora che d'un'avventura di viaggio. Se fossi restata, sarebbe diventata un vero amore. Un amore impossibile. E allora avrei sofferto davvero. ma non volevo soffrire. Avevo visto troppo da vicino la sofferenza di Paul. Avevo coricato sul mio divano troppe donne torturate che non riuscivano a guarire. Se parto dimenticherò, pensai. Dimenticherò per forza. Si dimentica. È matematico. Si dimentica tutto. E presto. 4 giorni sono facili da dimenticare. Cercai di pensare a Lewis come a un dimenticato. Leggeva o scriveva nella sua stanza e m'aveva dimenticata. Sì, anche lui avrebbe dimenticato. Oggi questa era la mia camera. Questo non esistito, pensai con passione. Non sarà per colpa mia. Non lo perderò per colpa mia. Lewis, se volessi ancora restare una settimana o due, sarebbe possibile. Credevo che v'aspettassero a Parigi, disse. Posso telegrafare, ma voi mi terreste ancora un po'? Tenervi? Io vi terrei per tutta la vita. Ma aveva lanciato queste parole con una tale violenza che m'abbattei tra le sue braccia. Gli baciai gli occhi, le labbra. La mia bocca discese lungo il suo petto, sfiorò l'ombelico infantile, il vello animale, il sesso, dove un cuore batteva a piccoli colpi. Il suo odore, il suo calore m'ubriacavano, e sentii che la mia vita mi lasciava, la mia vecchia vita con i suoi affanni, le sue stanchezze, i suoi logori ricordi. Lewis strinse a sé una donna tutta nuova. Gemetti, non soltanto di piacere, di felicità. Il piacere sapevo già cosa fosse, cosa valesse, ma non avevo mai saputo che fare all'amore potesse essere così sconvolgente. Il passato, l'avvenire, tutto ciò che ci separava moriva ai piedi del nostro letto. Niente ci separava più. E quando Lewis disse «Vi amo», io lo dissi con lui. Restai a Chicago 15 giorni. Per 15 giorni vivemmo senza avvenire e senza farci domande. Scoprivo continuamente nuove ragioni per amarlo, forse perché tutto quel che scoprivo in lui serviva al mio amore di nuovo pretesto. 2 giorni prima della mia partenza andammo a pranzo in un vecchio ristorante tedesco e poi scendemmo sulla riva del lago. «Che bella notte», mormorai. «Quando penso che avrei potuto non telefonarvi, che voi avreste potuto non rispondermi». «Oh», disse Lewis, «non avrei potuto non incontrarvi». C'era nella sua voce una tale certezza che ne ebbi il fiato mozzo. Posai le labbra proprio dove batteva il suo cuore e mi promisi «Non rimpiangerò mai questo incontro». Tra 2 giorni sarei partita. L'avvenire esisteva di nuovo. Ma noi ne avremmo fatto una felicità. Alzai la testa. «Lewis, se volete, tornerò per 2 o 3 mesi in primavera». «Quando tornerete sarà sempre primavera», disse Lewis. Restammo a lungo abbracciati, guardando le stelle. Quando ne vidi una filare attraverso il cielo, dissi «Chiedete qualcosa». Lewis sorrise. «L'ho già chiesta». Mi si strinse la gola. Sapevo ciò che aveva desiderato e che il suo desiderio non sarebbe stato esaudito. Laggiù, a Parigi, la mia vita m'aspettava. La mia vita che avevo costruita in 20 anni e che non potevo pensare di rimettere in questione. Sarei tornata in primavera, ma solo per ripartire. Thank you. 18 ore sono poche per saltare da un mondo in un altro, da un corpo in un altro. Ma appena Robert mi sorrise, sorrisi anch'io, presi il suo braccio e mi misi a parlare. Gli avevo già raccontato molte cose per lettera, tuttavia, appena aprii bocca, sentii che scatenavo un mostruoso cataclisma. Tutti quei giorni così vivi che avevo appena vissuto, improvvisamente si pietrificarono. Dietro di me non restava che un blocco rigido di passato. Il sorriso di Lewis aveva preso la fissità d'una smorfia di bronzo. Io ero lì, andavo per strade che non avevo mai lasciato, stretta a Robert, da cui non m'ero mai separata, e raccontavo una storia che non era successa a nessuno. Era la fine di maggio. Partimmo il giorno dopo per Saint-Martin. L'aria era tiepida, ci sedemmo nel giardino. Appena Robert cominciò a parlarmi, capii che era pieno di delusione e di disinganno. I comunisti avevano finalmente aperto contro di lui la campagna che temeva già da un anno. Tra l'altro avevano pubblicato su L'Enclume un articolo che l'aveva toccato sul vivo. Anch'io ne fui ferita. Parlavano di Robert come d'un vecchio idealista incapace di adattarsi alle dure necessità del tempo. Era evidentemente un sollievo per lui poterne parlare con me. Io mi dicevo che forse non era di me precisamente che aveva bisogno, ma che comunque questa moglie di cui occupavo il posto gli era utile. Era il mio posto, senza dubbio, il mio vero posto sulla terra. Ma allora perché non ci restavo tranquilla e in pace? Perché queste lacrime? Piango, pensai, e tuttavia sono qui. Non l'ho amato abbastanza. Sono qui ed ecco che piango. Non amo abbastanza Robert. Ammiro quelli che racchiudono la vita in formule definitive. L'amore fisico non è niente, dicono, o un amore che non è fisico non è niente. Ma io, ora che avevo incontrato Lewis, non tenevo meno a Robert. E la presenza di Robert, per immensa che fosse, non colmava l'assenza di Lewis. Nel frattempo, Scriassin aveva combinato un incontro tra Robert e un funzionario sovietico che aveva passato la cortina di ferro apposta per denunciare all'Occidente i misfatti di Stalin. Il giorno prima di questo incontro, Scriassin venne a Saint-Martin con un fascio di documenti a cui voleva che Robert desse un'occhiata. Se ne andò molto presto e Robert si mise subito a sfogliare il grosso fascio di carte. Alcune erano scritte in francese, molte in inglese, altre in tedesco. «Dai un'occhiata anche tu», mi chiese. Mi sedetti accanto a lui sotto il tiglio e leggemmo in silenzio. «Cosa c'è di vero in tutto questo?» chiesi. «Certo, molte cose», mi disse con voce breve. «Cosa pensate di fare?» chiesi quando lasciamo il giardino per andare a mangiare qualcosa in cucina. «Non posso decidere niente così dall'oggi al domani», disse Robert. «E innanzitutto ho bisogno di informazioni supplementari». «E se queste informazioni saranno una conferma, cosa farete?» Non rispose, e io lo guardai inquieta. «Avete sempre voluto essere un intellettuale e un rivoluzionario insieme», dissi. «Come intellettuale vi siete assunto degli impegni, tra l'altro di dire la verità». «Tacendo mi farei complice di questi campi», disse Robert. «Ma parlando mi farei complice dei nemici dell'Unione Sovietica, cioè di quelli che vogliono che il mondo resti com'è. Allora i miei doveri di intellettuale e il rispetto della verità cosa vuoi che contino? La sola cosa che si tratta di sapere è se, denunciando i campi, lavoreremmo per gli uomini o contro di loro». «Sia», dissi, «ma cosa vi autorizza a pensare che la causa dell'Unione Sovietica faccia ancora tutt'uno con quella dell'umanità? Mi sembra che l'esistenza dei campi ci costringa a rimettere in questione l'Unione Sovietica intera». «Bisognerebbe sapere tante cose», disse Robert. «Voglio informarmi prima di prendere una decisione». Non insistei, ma mi stava accadendo una cosa intollerabile. Dubitavo di Robert. Un tempo avrebbe parlato, mi dissi. Ora, ad un tratto, ha deciso di tacere. Perché? Sentirsi trattare da idealista l'ha ferito. Cerca di adattarsi da realista alle dure necessità del tempo. Ma adattarsi è fin troppo facile. Anch'io m'adatto e non ne sono affatto contenta. Sempre passar sopra, sempre accettare, alla fine significa tradire. Accetto l'assenza e tradisco il mio amore. Accetto di sopravvivere ai morti e li dimentico. Li tradisco. Certo, finché non si tratta che dei morti o di me stessa, non è così importante. Ma tradire dei vivi è grave. Valentina Carnelutti ha letto I mandarini di Simone de Beauvoir, regia di Anna Antonelli, riduzione di Chiara Nicoletti, a cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it